Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, oggi partiamo dalla data, partiamo dal 5 di luglio che fino al 1982 era, come mi ricorda Nicola Filippone che anche oggi ha curato questa rubrica pur non potendo registrarla, inciderla per problemi tecnici, fino al 5 luglio dell'82 era una data che non registrava alcun evento significativo, il giorno 5 luglio, poi da allora direi che qualcosina è cambiata. La sigla. Sembra ieri. Quel giorno, 5 luglio, tanto vale che ce lo facciamo raccontare, poi magari vi darò qualche altro dettaglio di tabellino o di curiosità, ma credo che molti di voi se lo ricorderanno a memoria. Tanto vale che a raccontarcelo sia la voce storica di Enrico Ameri. Tornare ancora indietro, è in possesso del pallone, si sposta verso il centro, invita l'azione Cabrini che giunge dalle retrovie, è in corsa, è pronta a calciare un passaggio, rete degli azzurri, ha segnato l'Italia con Rossi, un colpo di testa di Rossi e il pallone è terminato in rete. Avanza Socrates vaccando la linea centrale del campo, mette ancora in azione il settore di destra Zico, colpo di tacco, sfugge a Gentile, libera Socrates, scende in aria sulla destra, pronta a tirare, rete, ha segnato il pareggio Zico, Socrates verso Leandro, pallone, il giocatore ha messo a terra la palla, la scambia con Toninho Cerezzo e quindi quest'ultimo dà ancora in avanti, però è Rossi che sorprende la difesa, tiro, rete, Rossi ha riportato in vantaggio l'Italia, Rossi sorprendendo tutti al 25esimo ha riportato in vantaggio l'Italia. Verso Luisinho che si trova alle sue spalle, sulla sinistra verso Junior, il terzino infaticabile avanza, è controllato da Cabrini e ancora in una delle sue scorribande è stato Conti a intervenire a vuoto, manda il pallone sulla destra per Falcao, Falcao è al limite dell'area, è indeciso se tirare o no, cerca lo spiraglio, parte il tiro, rete, ha segnato Falcao, parte in questo momento il tiro, Socrates di testa salta insieme agli altri, ribatte Tardelli, rete di Conti, rete di Rossi per la terza volta, Rossi 3 gol. Era, lo ripeto, il 5 luglio 1982, tra l'altro quel giorno nasceva anche Girardino all'ospedale di Biella e per parecchi anni c'è stata la suggestione che Girardino, che poi è diventato un grande centravanti, potesse emulare quel 5 luglio, un giorno qualunque del suo compleanno, purché di un mondiale, emulare Paolo Rossi. Fino adesso proprio mi pare che non sia accaduto. Quello stesso giorno dell'82 la Spagna, pareggiando con l'Inghilterra, la eliminò e andò quindi avanti la Germania. Un altro 5 luglio, leggo sempre dalle ricostruzioni di Nicola Filippone, un altro 5 luglio, 12 anni più tardi, nel 94, a Boston l'Italia stava per essere eliminata dalla Nigeria, vinceva per 1-0 all'89esimo con un gol di Amunike nel primo tempo, quando quel pallone filtrante di Mussi fu girato in porta da Roberto Baggio, che poi, nonostante l'Italia fosse in 10 per l'espulsione di Zola a un quarto d'ora alla fine, che poi con Baggio trovò il calcio di rigore decisivo nei supplementari, alla fine del primo tempo supplementare. Fino a qui gli Amarcord. Adesso comincerei con un po' di corrispondenza, perché se ne è accumulata tanta in questo fine settimana, sempre di argomento mondiale. Molti ascoltatori sollecitano una curiosità, anche per iscritto lo sto vedendo. Per esempio Pier Giorgio Ghidini scrive: mi ha incuriosito la settimana scorsa quando, parlando di gol fantasma, lei raccontò di quella proposta geniale di quel suo amico ex calciatore, di cui mi perdoni ma non ricordo il nome, che proponeva un dislivello dietro la porta per togliere la possibilità alla palla che rimbalza dentro la porta stessa di uscire. Sto leggendo la Gazzetta al bar, a pagina 9 vedo che lo spretato per eccellenza Tombolini fa la stessa proposta dicendo di aver avuto l'intuizione guardando il calcio balilla. Mi ha colpito che in questo paese ci sia proprio di idee altrui senza pudore. Che ne pensa? Ma non sarei così severo, questa è un'idea che può venire a tutti, certo è abbastanza curioso. Guardando il calcio balilla magari meno, è curioso, diciamo, come minimo è curioso che insomma, essendo stata annunciata pochi giorni fa e regolarmente e sacrosantamente attribuita a Silvio Smersi, che fu il calciatore, l'ex calciatore parmigiano che ne ebbe l'idea, è curioso che a distanza di pochi giorni rimbalzi da Tombolini, che pure è in Sudafrica, ma si vede che qualcuno non so, come dire, dei suoi referenti, ascolta Radio 24, così scrive Davide Sani da Parma, per esempio, così scrive Roberto Cazzaniga. Lei è fiero di annoverare tra i suoi ascoltatori un cervello del calibro di Tombolini, la prego colga l'ironia, scrive Roberto Cazzaniga. Dai, non esageriamo, Tombolini fa la sua corsa, ciascuno di noi fa la sua corsa, poi c'è chi corre in maniera più elegante e c'è chi corre invece in maniera un pochino più goffa, oppure essendosi magari da tempo un po' montato la testa, ma insomma non è grave. E quindi lasciamo stare, archiviamo questo genere di messaggi, ridando ancora una volta da qui a Cesare, anzi a Silvio, quel che è di Silvio. Silvio, sto parlando di Smersi, sia ben chiaro, la cui memoria mi è sacra. Silvio Smersi, calciatore e pittore folle, ma folle saggio parmigiano, che ebbe appunto questa idea di cui la settimana scorsa vi ho raccontato. Poi adesso, naturalmente, dopo avervi fatto riascoltare la radiocronaca originale di Enrico Ameri, la sintesi di quel giorno, è evidente che i messaggi che stanno arrivando sono di quel genere. Potremmo sentire una voce attuale prima di arrivare al primo intervallo, che è quella di Buffon, che ha parlato stamane dopo l'intervento a cui è stato positivamente sottoposto ieri. Allora, la prima opinione è quella sul suo nuovo allenatore del Neri. Credo che alla fine, anche in questi anni, abbia insomma sempre dimostrato di essere un allenatore preparatissimo, un allenatore che non si è mai sottratto al rapporto con il giocatore. Credo che sia una prerogativa importante, perché ho sempre pensato che l'allenatore debba fare parte del gruppo e non stare né sopra e né sotto quest'ultimo. L'11 luglio 82, mi segnala Andrea, giorno della vittoria mondiale, nasceva anche Antonio Cassano, è verissimo, ed è un altro, no? Che fino ad ora le promesse non le ha mantenute, anche perché poi Cassano è dotato di ancor più talento di Girardino, pur non giocando nello stesso ruolo di Paolo Rossi. Sentiamo ancora un frammento di Buffon sui suoi possibili sostituti. Chi mi sostituirà, insomma, sono portieri ormai anche più grandi di me, per cui hanno tanta esperienza, sia Alex Manninger che Marco Storari hanno fatto benissimo quando hanno giocato, per cui sicuramente non faranno sentire la mia assenza. È un augurio, evidentemente, che Buffon fa ai suoi temporanei successori. Scrive Nico da Biella: buongiorno, forse le converrebbe brevettare quei suoi aneddoti così preziosi. Questa è molto carina, Nico, ma gli aneddoti restano, l'importante è averne da raccontare, e possibilmente di qualità. Questo di Silvio Smersi certamente lo era. Sentiamo un ascoltatore e poi andiamo in Sudafrica da Fabio Tavelli. Ha chiamato Franco dalla provincia di Mantova, buongiorno. Buongiorno dottor Garanzini. Dica, Franco. Volevo, sempre a proposito di nazionale, fare una piccola osservazione, che i quattro titoli mondiali che abbiamo vinto nel corso degli anni, dal 30 fino al 2006, sono stati vinti quando c'era un blocco di una società forte, che guarda caso si chiama Juventus. Oggi questo blocco non c'è più, quindi questa nazionale prevedo che impiegherà diversi anni prima di tornare a vincere, visto che hanno distrutto quello che era la matrice, diciamo, fondamentale per quanto riguarda l'ossatura della nazionale. Tutto qua. Beh, vale per le ultime due edizioni, per le prime due vale fino a un certo punto, in parte nel 34, non più nel 38. Nel 38 non c'era nessun blocco, era una nazionale molto a mosaico anche a quella di allora, però era un mosaico certamente più collaudato di quelle che si possono avere in tempi recenti, perché c'erano più partite, perché c'erano più giorni da trascorrere insieme, perché quel calcio di club era meno invasivo, insomma c'erano differenze storiche che insomma parlandone così a quella maniera, insomma, è facile sottovalutare. Siamo collegati con lo studio centrale Sky Sport 24 a Johannesburg. Fabio, buongiorno. Buongiorno Gigi, buongiorno a tutti. Senti, io ti seguo giorno e non dico notte, ma sera tardi. Allora, per esempio, due cose. Partirei da quella di un paio d'ore fa. Ti ho sentito teorizzare, insomma, comunque, ti ho sentito esibirti su questa teoria dei normal men, e cioè dei normal one, forse, no? O men, adesso vedi tu, me la specifichi bene. Comunque, riferita ai quattro allenatori semifinalisti in questo mondiale. Beh, mi pare un dato davvero interessante, cioè il fatto che siamo arrivati all'ultimo atto quattro allenatori che non hanno praticamente mai dato un titolo di apertura a un giornale internazionale, perché né Tabaret, con il suo modo molto compassato di analisi, anche con la sua capacità di stare in panchina in una maniera molto, molto elegante, così come lo stesso Joachim Löw, che è passato soprattutto su YouTube per un gesto magari non educatissimo nella partita contro l'Inghilterra, ma non, insomma, per il resto le sue dichiarazioni in conferenza stampa sono tutte abbastanza normali. Anche Van Marwijk, io credo che la maggior parte degli sportivi Van Marwijk nemmeno lo conoscesse prima di questo mondiale, e non conoscesse il suo curriculum e la sua storia, che non è una storia particolarmente ricca di trionfi. E oltre, anche Vicente del Bosque è un allenatore che fu mandato via dal Real Madrid perché era uno che non amava tanto stare davanti alle telecamere. Quindi, cioè, mi pare di notare, almeno in questo mondiale, una tendenza alla normalità da parte degli allenatori che poi hanno vinto. Cioè, i protagonisti di conferenze stampa scoppiettanti sono tornati tutti a casa. Questo è oggettivamente vero. Se invece poi parliamo della differenza di lavoro, di metodologia che ci deve essere tra un allenatore di club e un selezionatore o comunque un commissario tecnico, beh, allora lì, insomma, un po' di differenza tra il normal e lo special, direi che ci può stare, insomma, no? Perché poi in fondo, in una manifestazione che dura un mese, ma un mese solo per chi vince, solo per chi va in fondo, è giusto cercare di tenere atteggiamenti di profilo un pochino più basso per non aggiungere ulteriori tensioni a una squadra che già ne sente tante, ecco, questo mi pare. Però è vero che questi quattro, i più normali dei quattro, no? Perché ne abbiamo visti andare fuori di quelli che facevano poi fenomeni, sì, ma poi indubbiamente chi è andato via o ha una grande storia alle spalle o ha o voleva fare un tentativo perché era un ex grande giocatore, cioè parliamo di Maradona o parliamo di Dunga, che erano tutte e due al primo mondiale, oppure parliamo di Marcello Lippi, che comunque un mondiale l'ha vinto, ma lui non è riuscito questa volta ad arrivare agli ottavi. Parliamo di altri allenatori che magari erano molto più carichi di personalità, come Fabio Capello, ma alla primavera da dentro fuori sono andati fuori. Ripeto, è un dato che non ha una sua scientificità, perché magari fra quattro anni ci ritroviamo quattro istrioni, sì, tra i primi quattro, certo. Questo è ampiamente possibile, però insomma trovo che in un periodo nel quale, cioè, dal quale usciamo, cioè da un campionato, da una Champions League, tutto da una coloritura forte da parte degli allenatori, delle squadre di club, trovare quattro allenatori normali che non dicono delle cose epocali, va bene, ma neanche delle cose che poi aprono dibattiti che non finiscono mai, o che comunque non spaccano in due l'opinione pubblica, come chiamala così, trovo che sia un dato su quale poter anche riflettere. Su cui riflettere, giustissimo. Questo l'hai detto stamattina. Invece sabato notte ci hai presentato, anzi ripresentato per la verità, perché non era un inedito, un radiocronista spagnolo giovane, ma per giovane che sia, insomma, uno spettacolo, certamente. Ce lo racconti un pochino? Ma guarda, allora, noi spesso andiamo a caccia di ospiti stranieri, anche perché soprattutto sulle loro squadre nazionali non abbiamo la pretesa di saperne quanto loro o più di loro, ma ne sappiamo certamente di meno, e poi perché ci piace comunque dare una nota di colore e anche un po' di movimento a volte in studio. E io ho incontrato quasi casualmente questo collega di una radio spagnola, che si chiama Radio Onda Cero. Lui si chiama Alejandro Romero ed è radiocronista del Real Madrid, un ragazzo di Valladolid, con il quale siamo diventati abbastanza amici, ci sentiamo anche fuori dal programma, e l'ho invitato la prima sera settimana scorsa per fargli dire due cose sulla Spagna, e poi non avendolo concordato, e quindi facendogli mettendogli quasi una trappola, dalla quale lui è uscito brillantissimamente. Gli ho detto: senti, adesso anche con il ritardo del satellite ti faccio vedere un gol della Spagna, commentamelo. Anzi, facciamo una cosa, visto che non voglio metterti in difficoltà con il ritardo del satellite, inventati un gol di Fernando Torres nella partita di domani. Lui ci ha messo 3 secondi, ha cominciato a carburare e è andato avanti e mi ha raccontato l'universo mondo, nel senso che non si fermava più. Allora la cosa è molto piaciuta e l'abbiamo rifatta l'altra sera, però con il gol di Viglia. Certo. Ed è stato veramente uno spettacolo, veramente una sequenza deliziosa che mi auguro per la Spagna, ma insomma mi auguro anche per voi, possiate replicare. Domani sera già invitato, è già prenotato. Perfetto. Perfetto. Oh, domani è il giorno di Olanda-Uruguay, della prima semifinale. Mi pare che non siano pochi i problemi di organico per entrambe le squadre. No, sono parecchi, sono tanti, anche perché riguardano sia infortuni che squalifiche. Partirei da Tavares, perché secondo me Tavares deve fare davvero un miracolo per mettere insieme una squadra capace di reggere l'onda d'urto dell'Olanda, perché lui non ha Suarez e credo che sia la squalifica, come dire, più felice da pagare, nel senso che Suarez gli mancherà tantissimo in campo, ma senza quella parata di Suarez, Tavares sarebbero a Montevideo da giorni. Esatto. E per quanto riguarda invece gli altri, all'infortunio di Lodeiro ci sono poi le condizioni fisiche di Lugano. Lugano è un giocatore importante e ha detto che giocherà solo se sarà al 100%. Io credo che lui ce la farà o comunque andrà in panchina. E poi c'è Fusile che è squalificato, quindi sono 4 giocatori, di cui 3 sicuramente a casa, cioè 3 sicuramente assenti e 1 in dubbio. Dall'altra parte Van Marwijk ha il problema di Van Persie, che si è fatto male un gomito. Ieri sembrava recuperatissimo, oggi un po' meno, vedremo oggi in una conferenza stampa. E poi ha due squalificati come De Jong e Van der Wiel, che tra l'altro Van der Wiel è uno dei giocatori di rivelazione, no? Poco conosciuti di questa Olanda. Bisogna vedere le condizioni di Mathijsen per quanto riguarda il difensore centrale. Hoyer è ovviamente pronto a sostituirlo, ma non è la stessa cosa per quanto riguarda il compagno di Aitinga davanti a Stekelenburg. Sì, mi pare tra l'altro che i problemi principali si concentrino nelle due zone difensive, perché anche l'Uruguay, vedevo, a parte Suarez, benemerito della causa uruguagia, Lugano e Fusile sono rispettivamente il centrale leader e l'esterno sinistro. Sì, sì. I 2 squalificati dell'Olanda sono difensori, mi pare. De Jong no, gioca in mediana. No, De Jong è mediana, è vero. Invece Van der Wiel è il laterale destro. Loro giocano con la difesa a 4, con Van der Wiel a destra, Van Bronckhorst a sinistra, con Aitinga e Mathijsen centrali. Mathijsen forse ce la fa, è quello che aveva avuto dei problemi nel riscaldamento contro il Brasile ed era entrato Hoyer al suo posto. Però è vero, rischiano di avere 2 quarti di difesa tutte e due fuori. Io credo che stia meglio l'Olanda da questo punto di vista, sì, perché Mathijsen mi dicono possa recuperare. E quindi però non so poi chi metterà sulla fascia destra al posto di Van der Wiel. De Jong è una assenza pesante, perché De Jong è un bel cagnaccio da mettere lì davanti, non c'è male. Alla difesa. A proposito di cagnacci, Van Bommel c'è, mi pare, no? Sì, Van Bommel c'è, non so se molti sanno, ma Van Bommel è il marito della figlia di Van Marwijk, dell'allenatore. Sì, esatto. No, ma non c'entra nulla. Pensavo è una delle più cattive dal punto di vista calcistico. Sì, no, infatti pensavo anche dell'arbitro dell'altro giorno fosse parente, sia pure acquisito, perché il fatto che abbia finito la partita nemmeno ammonito Van Bommel è uno degli scandali del mondiale. Beh, insomma, è sempre una notizia. È sempre una notizia. Senti, invece mi pare, e così concludiamo anche questo collegamento di oggi, mi pare che ci sia o ci sia stato un rischio blackout addirittura sull'intera ultima settimana mondiale in Sudafrica. Questa è straordinaria, perché te la faccio in breve. Già dalla settimana scorsa avevo notato sui giornali, quelli più popolari, che la notizia era cominciata a circolare. Cioè la Eskom, che è la società, è l'Enel sudafricana, ha dovuto fronteggiare una protesta a parte dei lavoratori che chiedevano un aumento salariale, un adeguamento salariale in base anche ai agli stipendi dei dirigenti, e anche un bonus per coloro che fossero spostati fuori sede, un bonus di 1500 rand al mese, insomma sono circa 160 euro per chi dovesse appunto pagarsi un affitto fuori sede. Sono arrivati allo scontro, sono arrivati a dividersi su 1,05%, perché i dirigenti di Eskom proponevano più 9%, più 8,5%, i sindacati chiedevano più 9%, quindi non una forbice amplissima. Poi però è saltato fuori in un giorno e mezzo che i dirigenti hanno avuto nell'ultimo periodo un aumento salariale tra il 73 e il 91%. E non preso 12 milioni di rand, che è una circa intorno al 1.300.000 euro, per comprare biglietti e pacchetti hospitality per i mondiali, e non credo fossero proprio per i lavoratori. Di fronte al fatto che, insomma, con un'opinione pubblica così sensibile sarebbe scoppiata la guerra civile, nel giro di pochissimo quello 0,5% è diventato 9, e quindi sono andati subito d'accordo sul 9%, anche sul bonus per il pagamento dell'affitto, e quindi i sindacati hanno ritirato la minaccia di sciopero. Bella storia, la prossima ce la racconti regolarmente domani. Presente, a domani, ciao. Ripartirei da una mail firmata Raffaele Apostoliti, molto bella. Sapete che ogni tanto ho il gusto di affidare un editoriale, una sorta di editoriale a un ascoltatore, che scrive in questo caso: bello perché è imprevedibile, pur se gli informatissimi bookmakers sono stati colti in contropiede. Ancora non comprendo perché la Spagna, che ha sofferto Svizzera e Paraguay, abbia quotazioni più favorevoli della Germania, che ha schiantato Inghilterra e Argentina. Bello perché la partita secca può avere ogni esito, le certezze è meglio lasciarle agli imbecilli. Bello perché ci ricorda che delusioni e lacrime fanno parte dello sport, quello vero, non quello degli spot delle multinazionali. Bello perché alla fine più del blasone conta la forma fisica, ed è facile che vinca chi corre di più. Bello perché se la vittoria finale sorridesse agli olandesi sarebbe un riconoscimento giusto a una scuola che al calcio ha dato tanto. Bello perché l'idea che il calcio sia quel gioco, come dicevano, ricordo chi, che si gioca in 11 contro 11 e alla fine vincono i tedeschi, si potrebbe accettare senza drammi, perché in certe occasioni il coraggio fa la differenza, e i tedeschi, lo diceva Montanelli, di coraggio ne hanno da vendere. Sì, ha ragione lei, caro Garanzini, questo è proprio un bel mondiale, nonostante Blatter e la RAI. Firmato Raffaele Apostoliti, l'ho trovato un buon editoriale. Poi Michele Marini, a differenza per esempio di questo messaggio appena arrivato, che ovviamente è anonimo, dice: Egregio Garanzini, la settimana scorsa esaltavate il Sud America pronosticando semifinali sudamericane, un po' di coerenza oggi? E che coerenza vuole dire che le semifinali saranno Uruguay, Brasile, Argentina, Perù? Non lo so, che coerenza vuole? Cioè il calcio, il mondiale, ma il calcio in generale, si può fare in due modi: o raccontando quello che accade, o tentando di indovinare quello che accadrà. Io in genere privilegio il racconto, a costo di tornare indietro nel tempo, come si è fatto oggi all'inizio con questo revival, no? Dettato dalla suggestione del 5 giugno, il racconto di per esempio di quell'indimenticabile Italia e Brasile dell'82. E poi invece ci si può anche divertire ad anticipare quello che accade. Ma se fino alla settimana scorsa la linea di tendenza di questo mondiale dimostrava nei fatti che andavano avanti molto bene le sudamericane, tutte, comprese il Paraguay, e andavano male almeno la metà delle squadre europee che contano, e cioè erano finite fuori come ramazze nell'ordine Francia, Italia, Inghilterra, mi sembra che sarebbe stato, cosa dovevamo dire, un trionfo delle europee e le sudamericane così. Addio Cico, Genoa è in lutto, è morto Marco Locatelli, ex giocatore genoano, è morto a 71 anni. Aveva giocato nel Torino prima e nel Genoa, era nato a Mar del Plata in Argentina il 21 dicembre del 39, l'aveva acquistato il Torino nel 1960 dall'Independiente, e poi nel 63 era arrivato al Genoa giocando 5 campionati, 109 presenze e 26 gol in rossoblù. Tra l'altro viveva nel centro storico a San Bernardo, era rimasto legatissimo al Genoa e al calcio, avendo per tanti anni anche allenato Cico Locatelli a livello dilettantistico. Un'altra mail e poi do la linea, no, prima a due ascoltatori. Francesco, Roma, buongiorno. Buongiorno. Dica. Vorrei fare un'osservazione sul gesto di Suarez, che ha, diciamo, parato quella palla che stava andando in porta. Sì. Certamente è un benemerito per l'Uruguay, però il gesto è del tutto antisportivo. Anzi, il rigore in quel caso è stato un vantaggio, perché ha consentito al portiere di ritornare in porta. Io vorrei proporre, se possibile, penso, oddio, come sta adesso messa la federazione internazionale sarà un po' difficile, però una proposta ce l'avrei. Quando la palla è oltre ogni difensore, compreso il portiere, quando l'attaccante sta solo vicino alla porta, viene steso giù, oppure come in questo caso viene parato una palla che va in porta, dovrebbe essere consentito di dare un rigore senza portiere. La palla di entrare, quello che stava per succedere. Senza portiere oppure col portiere bendato? Che dice? Anche perché un tempo, perché l'importante è esagerare, Francesco, no? Scusi, non ho capito. Perché l'importante è esagerare, dico. Sì, ma non è esagerare, guardi, perché sapevo che 50 anni fa il fallo da rigore era definito talmente brutto, talmente una cosa brutta, che tanti proprio non andavano in porta, 50-60 anni, se ricordo bene, io non vivevo ancora, ho 49 anni. No, lei sta dicendo una cosa che non ha... che non l'ho capita bene, ma non mi risulta. Comunque, insomma, mi ha rubato la mail, perché la mail che stavo per leggere è firmata Michele Marini e scrive: sono anni che ci penso, ma ovviamente la circostanza grandiosamente drammatica del quarto di finale Uruguay-Ghana mi fa tornare in mente questa cosa. Perché invece di rigore cartellino rosso non si assegna il gol? Che differenza c'è rispetto al rugby quando un'evidente scorrettezza impedisce la realizzazione di una meta sicura e si chiama meta tecnica? Io dico, non lo so, perché ogni sport ha le sue regole. La regola del calcio, per esempio, è che le mani le usano soltanto i portieri. Se eccezionalmente le usa un altro giocatore, il giocatore viene ammonito o espulso a seconda della zona di campo in cui commette questa infrazione. Però voi ne state parlando come di un reato, invece questa è semplicemente un'infrazione tecnica, è un fallo come un altro. Questo è il regolamento attuale. Questo è il regolamento che io personalmente condivido. Non vedo perché un giocatore di campo, cioè non un portiere, sulla linea non possa sostituirsi al portiere cercando come sempre si cerca, no? Di metterci il petto, la gamba, il ginocchio, il naso, qualsiasi parte del corpo, e sbizzarritevi voi, e se poi invece non basta, si tuffa, la prende con le mani e sa già che viene espulso e che c'è calcio di rigore. Mi sembrano due sanzioni sufficienti. La fucilazione alla schiena mi sembrerebbe vagamente eccessiva, ecco. Giulio, provincia di Modena, buongiorno. Sì, buongiorno, mi ha rubato proprio un attimo il discorso, la parentesi riguardante la sanzione contro le mani sulla linea, perché se fosse successo al primo minuto si sarebbe detto che il regolamento attuale rovina le partite. Troppo severo. Certo. Quindi io che certo. Faccio l'arbitro, lei capisce che, che giocò delle fasi finali di un mondiale dopo che parò, se non sbaglio, sulla riga con le mani nel 78 un colpo di testa, ora non mi ricordo di chi. Questo per dire che però Kempes giocò la finale e fece anche una doppietta, quindi voglio dire, non in finale ma in quella partita in cui fece quel male. Comunque, al di là di questo, il mio discorso era relativo alla nostra nazionale. Mi rifaccio una frase di Lippi, che sono uno di quelli che ha piacere di non vedere più il nostro CT per un discorso di caratteriale più che non tecnico, però è quando lui dice che se chiunque fosse venuto non sarebbe cambiato tanto. Purtroppo in questa cosa devo essere d'accordo. Credo che chiamando tutte le incognite, che magari potevano darci qualcosa in più, vedi Balotelli in particolare, più di Cassano a mio avviso, perché Balotelli lo vedo quello che spacca anche la partita in corsa, più di un Cassano. Ma detto questo... Sì, sempre precisando che la può spaccare in due modi, cioè spaccare il ginocchio dell'avversario alla prima entrata e uscendo... Un'incognita, come l'ho detto all'inizio, un'incognita veramente... No, d'accordo. Perfetto. Ecco, però dico questo, che la generazione attuale nostra... È 4 anni più vecchia di quella che ha vinto un mondiale con una difesa formidabile, quindi non si è aggiunto nulla in questi 4 anni a livello di talento. Poi non è stato coltivato, non è stato convocato, qui ci possiamo andare a cercare le colpe, ma oggi quando noi vediamo Pepe in Italia, vediamo Robben nell'Olanda, capiamo tante cose, ecco, per farne uno. Poi potrei prendere Sneijder e metterlo di fianco a Montolivo, ecco, adesso faccio degli esempi sui ruoli che ho visto in questi mondiali. Sì. La differenza è talmente abissale. L'unica cosa che poteva colmare questo gap era una squadra come la Germania, iperorganizzata, che corre tantissimo, età media 24 anni e mezzo e buone qualità. 24 anni è qualcosa, ma meno di mezzo, credo comunque non ha importanza. 24 è qualcosa, ma appena qualcosa, ripeto, la Germania. 26 mi pare scarsi, o appena anche lì superati, la Spagna. E quindi siamo evidentemente ad altri livelli di programmazione, di idee, di... ma insomma siamo anche un altro calcio. Io sono, non ho mai fatto il tifo per i tedeschi, credo che farò fatica anche stavolta perché è qualcosa di atavico, però ci sono, insomma, ci arrivo vicino. Già l'altro giorno mi è successo, non di tifare perché per quel che mi riguarda non avrebbe senso, ma di essere molto, come dire, almeno compiaciuto, no? Davanti a questa esibizione di calcio, perché da un lato per la prima volta giocano anche un grande calcio e mi pare sia la prima volta nella storia dei tedeschi che giocano non un bel calcio ma il migliore del mondiale, perché io ricordo una grande Germania, forse la più grande di tutti i tempi dal punto di vista tecnico, che era quella di Overath, di Beckenbauer, di Müller, di Zeller, di Schnellinger, di Paul Breitner, insomma parliamo di 70 e 74, ma non riuscì mai a giocare il miglior calcio del mondiale, perché nel 70 c'era un Brasile da fantascienza, a parte una discreta Italia che non a caso quei tedeschi ribatté, e nel 74, anche se furono i tedeschi a vincere, c'era un'Olanda che rubò la scena da un punto di vista estetico, tecnico, tattico, su questo non c'è dubbio. Stavolta invece, indipendentemente da come andrà a finire, e magari non vinceranno, mi pare che la Germania, da un punto di vista spettacolare, sia la squadra che è più piacevole vedere, perché è successo così fin dalla prima partita con l'Australia, e poi nonostante siano cresciute le difficoltà è andata alla stessa maniera, e mi piacerebbe ricordare anche che una partita l'hanno già persa con la Serbia, ma solo perché Klose ha fatto una doppia sciocchezza, si era fatto espellere e gli era però girata tutta storta, perché anche in quella partita comunque sono riusciti a creare 6, 7, 8 occasioni da gol, anche contro i serbi e anche l'inferiorità numerica già dal primo tempo. Tocca a Paolo da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno, salve. Senta, volevo intervenire a proposito di quello che prima diceva Tavelli, giornalista di Sky, cioè sulla considerazione che lui ha fatto in base ai quattro allenatori che sono arrivati nelle semifinali, che chiaramente diceva c'è spazio per riflettere, eccetera, però in realtà, se andiamo a vedere, ci sono anche delle situazioni un pochino episodiche, cioè l'Olanda ha vinto anche meritatamente, per carità, col Brasile, ma sfido chiunque sull'1-0 per il Brasile al primo tempo indovinare che l'Olanda avesse fatto poi quel risultato, in parte dovuto anche, diciamo, a delle disgrazie, no? Giulio Cesare, certo, a dei regali. Ma le dirò di più, poi la lascio continuare. Le dirò che al 67esimo di Germania-Argentina, un istante prima che Müller da terra faccia l'assist del 2-0, mi pare che la Germania stesse notevolmente soffrendo, e questo rivaluta un po', secondo me, perlomeno, la prestazione argentina, nel senso che poi leggi 4-0 e i commenti che conta il risultato, e come sempre poi si esagera da una parte e dall'altra, ma dopo i primi 20 minuti della Germania magnifici, l'Argentina ha fatto molto per tornare in partita, ed era una di quelle partite discretamente stregate in cui anche quando riuscivano a creare l'azione giusta, comunque poi il tiro o usciva di un metro o era in bocca al portiere, e ci sono invece i giorni in cui ti va diversa, no? Cioè Sneijder potrebbe vincere il titolo di capocannoniere perché ha 4 gol, beh, insomma, uno è stato un cross bucato da Julio Cesar e sfiorato da Melo, e l'altro è stato un tiro in faccia al portiere del Giappone che se l'è tirato dentro. Chiuso le parentesi e torno da lei. No, poi volevo dire, anche la stessa Germania e Inghilterra, se vogliamo, cioè, tu arbitro, dammi il 2-2, dopo ce la giochiamo di nuovo, magari la Germania stravince perché ha meritato, però, cioè, voglio dire, quindi sono anche episodi che hanno, magari se vogliamo, anche meritati, no? La fortuna aiuta gli audaci, se vogliamo, sì. Però tutto sommato, diciamo, quella considerazione di Tavelli non riuscivo poi a capire che riflessione si dovesse fare, insomma. No, vabbè, ma è una buona riflessione, cioè combinazione, lui ha detto combinazione, non ha mica detto, no, non l'ha spacciata per una ricetta vincente o per chissà quale teoria, siamo in ritardo sul traffico, mi sto accorgendo, è anche notevole, non l'ha spacciata, dicevo, per una teoria, è una riflessione, combinazione, questi quattro allenatori sono tutti e quattro delle persone normali che non se la tirano da fenomeno, ecco, tutto lì. Daniele da Treviso ci informa che sul rigore senza portiere sta ancora ridendo adesso, ed è passato quasi un quarto d'ora. Daniele, io no, perché ci sono un pochino più abituato, ma effettivamente l'idea del rigore senza portiere per punire uno che salva con le mani sulla linea ne sento tante, ne sento e ne leggo tante. Qua Mario Bergamo, buongiorno. buongiorno, buon calcio a tutti. Allora, diciamo che alcuni argomenti me li avete rubati con l'editoriale, comunque in buona sostanza io tifo Olanda da quando è uscito l'Italia e penso e spero che lo vinca, perché nel 74 e nel 78 uno dei due l'avrebbe meritato. Non lo vincerà la Germania perché mi ricorda tanto l'Italia del 78 che giocava il miglior calcio e a volte le squadre che giocano il miglior calcio non lo vincono. Sai cos'è? Che è un po' dispendioso da un punto di vista, da un punto di vista atletico. Cioè, ci sono ancora due partite e tra l'altro adesso la Germania, l'ho interrotto solo un attimo ma per andare avanti sulla sua riflessione, tra l'altro la Germania rispetto all'Olanda o all'Uruguay, ma diciamo all'Olanda in linea di massima, Germania o Spagna avranno un giorno in meno di recupero dalla semifinale alla finale e di questo va poi tenuto conto. Prego. Finivo il discorso con la Spagna, sì, che è una bella squadra ma mi sembra un po' debole in difesa. Tutto qua, vi ascolto per radio, buongiorno. Grazie Mario, ma a me la Spagna sinceramente sembra un po' debole dappertutto, cioè rispetto alla Spagna di due anni fa, la Spagna dell'europeo, rispetto alla sua miglior versione, non fin qui non ha funzionato. Poi è vero che il mondiale comunque si vince nelle ultime due partite, semifinale e finale, quindi ha tutto il tempo ancora di farlo, però mi sembra semmai in involuzione che non in evoluzione. Aveva giocato meglio paradossalmente nella prima partita persa con la Svizzera, secondo me, di quanto non abbia fatto contro il Paraguay. Mi sono scoperto ad un certo tipo, pur amando il calcio spagnolo, mi sono scoperto ad un certo punto dell'altra sera tifare per il Paraguay, ma sempre tifare con tutte le virgolette del caso, ma insomma augurarmi che vincesse il Paraguay, che stava facendo una partita strepitosa per il mio dal punto di vista tattico e da un punto di vista di, ma proprio di preparazione della partita e di conoscenza estrema dell'avversario, delle sue forze e dei suoi limiti. E poi gli è girato tutto storto, ma insomma io credo che se avesse vinto l'Uruguay sarebbe stato un verdetto altrettanto equo e forse anche un tantinello di più, però anche lì i rigori bisogna segnarli ed è chiaro che se Cardoso infilava il rigore suo non ci sarebbe stato il rigore di Xabi Alonso, doppio, e tra l'altro doveva essere triplo perché poi c'era quello su Fabregas sulla respinta, ma lì arriviamo alle combinazioni. Quelli sono stati certamente i tre minuti più folli dell'intero mondiale fino adesso, i più divertenti, i più drammatici anche, non c'è dubbio. Demetri, io ho chiamato da Roma, buongiorno. Sì, salve. Anch'io insomma ho preso in modo ironico la proposta del rigore senza portiere, però il ragionamento del suo ascoltatore non era in tutti gli effetti sbagliato, perché evidentemente c'è una sproporzionalità rispetto poi agli effetti di quello che è accaduto nel mondiale, quindi ci potrebbe essere una via di mezzo. Ad esempio il rigore lo va a parare una volta superato il portiere, se un giocatore ferma la palla in porta con le mani, il rigore lo para quel giocatore, ovviamente seguendo le regole del calcio. Perché dobbiamo far diventare il calcio uno sport oratorio? Ma me lo spieghi lei? No, ma io non lo so, ma voglio dire, ci sono tante regole che con il tempo sono state introdotte che sembravano... 10 anni fa il pallone pesava mezzo chilo di più. No, stiamo giocando con... Demetrio, il pallone pesava esattamente quello che pesa oggi. I palloni sono sempre pesati quello che pesano oggi. È l'elasticità che è cambiata. Sono i materiali per farli, ma non il peso. Va bene. Comunque non facciamo la fine dell'oratorio. La saluto, però vorrei approfittare di questa occasione per fare due domande che volevo fare in una delle sue tante trasmissioni passate, che comunque sono attinenti sempre al mondiale, rispetto alla squadra italiana. Se mi permette vorrei solo proporre due domande, dopodiché magari posso? Certo. Allora, vorrei chiedere al signor Lippi, io non sono un grande intenditore di calcio, però vorrei chiedere... Però in sintesi, Lippi, cioè volentieri Demetrio, però 20 secondi in totale. Con chi pensava di saltare l'uomo e creare una superiorità in attacco a centrocampo in qualche posto del campo? E a questi Lippi... Con chi pensava poi di spingere sulle fasce, visto che comunque già nel 2006 Zambrotta aveva giocato intermittenza da quel punto di vista, e comunque non mi sembrava che ci fosse qualcun altro in questo mondiale. Poi volevo sapere con che difesa pensava di superare il primo girone, visto che comunque Cannavaro stesso era già stato appiedato. Sono tre, con quale centrocampo pensava di arginare meglio gli avversari, interpreto io, e con quale attacco pensava di far gol. Grazie, presenterò la prima volta che avrò occasione di parlare con Lippi, che come sa non fa parte del novero delle mie frequentazioni abituali. Renato è in linea da Lucca, buongiorno. Buongiorno e saluti a tutti i radioascoltatori, a lei e a tutti i radioascoltatori. Solo in sintesi una piccola difesa per quel giocatore dell'Uruguay che, dell'Uruguay che ha preso la palla. È un gesto istintivo, si gioca a pallone, non sono belli gesti istintivi violenti, ma quello del pallone è da considerare nel gioco del calcio. Renato, io credo che sia un gesto istintivo, no, credo che sia un gesto, credo che sia un grande gesto, cioè, io non lo so, poi se qualcuno, come l'ascoltatore di prima, non so, ama il subbuteo, ci sono tante, tante belle varianti, il mondo è bello perché è pieno di sport, ecco, ma il calcio è questo, il calcio prevede che se uno, provo a ripeterlo per la... Se uno è nei paraggi della sua linea di porta e il portiere è uscito per far falle tipo Muslera, che sto facendo fatica a reggere la pancia in mano dal ridere quando leggo tipo sulla Gazzetta di stamane che Muslera è il miglior portiere del mondiale, quando c'è Muslera con la sua reticella, no, che è in giro per far falle per l'area di rigore, e c'è un altro giocatore qualunque della sua squadra che si mette sulla linea di porta e para, ma non istintivamente, para, cioè si tramuta in portiere, il regolamento glielo consente, gli dice: caro ragazzo, come tu la tocchi con la mano, sappi che vai fuori, sappi che è calcio di rigore, tu sei espulso e di conseguenza la prossima partita non li giochi. Finita. Però non è che, ripeto, non c'è il plotone d'esecuzione, si ha diritto al non bendaggio, eccetera. Io non riesco sinceramente a capire il perché di questo, quello che capisco è che l'orologio mi sta dicendo di salutare e ringraziare Filippo Auregi in regia, Flavio Suardi in redazione e di darvi appuntamento a domani. A tempo di sport. Yeah.